trovare un senso come me a questi giorni che passano veloci in questo mare di cuori e di voci. Il tuo porto qual è? Per te che cerchi di capire in fondo che cos'è che conta veramente in questa vita, in questo viaggio in discesa e salita, la tua strada qual è? Ma forse il senso è perso in ogni giorno e potrai scoprirlo solo se ti accorgi che questo giorno è per te, per i tuoi sogni e le tue fragilità, per le tue gioie e le difficoltà e la tua voglia d'amare. Questo giorno è per te, per quello che non hai dato mai, per fare quello che ancora non hai il coraggio di dire. Questo giorno è per te. Per me che cerco solo qualcun altro come te, a cui cantare ancora una canzone, per regalare e regalarmi un'emozione, guardando negli occhi tuoi. E forse questo è il senso di ogni giorno, se saprai capire ancora un altro po' di te. Per te, per i tuoi sogni e le tue fragilità, per le tue gioie e le difficoltà e la tua voglia d'amare. Questo giorno è per te, per quello che non hai dato mai, per fare quello che ancora non hai il coraggio di dire. Del tuo